coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Il 21 agosto del 1979, a due giorni dal suo 69esimo compleanno, si spegne a Rapallo in provincia di Genova Giuseppe Meazza, una delle più grandi leggende del calcio italiano. Non è ancora ventenne quando fa il suo esordio in nazionale il 9 febbraio del 1930 nel match di Roma contro la Svizzera. Con una doppietta decisiva, il cosiddetto Balilla trasforma lo scetticismo iniziale in acclamazione. In 9 anni di carriera azzurra, Meazza disputa 53 gare, realizzando un totale di 33 reti e conquistando 2 coppe internazionali e 2 mondiali consecutivi, il secondo dei quali da capitano della nazionale italiana. Beh, Sant'Ambrogio certo è il santo dei milanesi, ma sappiamo anche che il football ha i suoi idoli, i suoi miti e anche i suoi santi laici. E beh, è San Siro, direi proprio che per i milanesi è il secondo santo più amato, perché simboleggia il calcio, simboleggia l'Inter e il Milan, simboleggia anche la passione per il football e la grandezza di Milano nella storia del calcio. San Siro sì, ma lo stadio Giuseppe Meazza. Oggi torniamo alle radici di questa intitolazione, perché San Siro non è stato sempre lo stadio Giuseppe Meazza, lo è diventato in un punto preciso della sua storia, lo è diventato grazie all'idea di un amico, ancor prima che collega, che ho il piacere di avere oggi ospite ad Olimpia. Mario Natucci, benvenuto oggi ad Olimpia, la città dello sport. Piacere, sono contento di essere qui, a disposizione. A disposizione per raccontarci una piccola grande storia dello sport milanese, italiano e mondiale, perché dicevamo che San Siro, il tempio del calcio italiano, divenne a un certo punto lo stadio Giuseppe Meazza. Grazie, diciamolo, a una tua idea, no? Sì, perché? È una piccola storia, tutto cominciò in una serata di precampionato in cui metà della redazione era stata mandata a vedere l'amichevole dell'Inter, all'altra metà la partita del Milan. Io ero assieme a Enrico Crespi, che era il responsabile dello sport della notte. Torniamo al giornale La Notte, Piazza Cavour, e scopriamo, guardando la telescrivente, che Giuseppe Meazza è morto. Quindi la pagina che era stata riservata alle amichevoli viene riservata al ricordo di Meazza. Era stato il giocatore milanese più popolare, e non solo a Milano, ma sì, a Milano in particolare era un idolo. Meazza, lo ricordiamo, straordinario trascinatore almeno dell'Italia, campione del mondo del 38, rimane nella storia quel calcio di rigore trasformato al Brasile tenendosi i pantaloncini che ormai si erano allentati, no? Insomma, non so quanti campioni di oggi riuscirebbero in tale virtuosismo. Ecco, in che periodo siamo, Mario? Siamo nel 79, all'inizio di settembre. Quindi la morte di Meazza scatena anche il dibattito in redazione, perché chiaramente un personaggio che nel nostro calcio, che ha segnato così profondamente il nostro calcio, non può essere ricordato neppure solo dal miglior articolo giornalistico possibile, no? Certo, certamente bisognava dedicare molto spazio e tutte le sforzi migliori, tanto è vero che ormai era quasi notte, perché le partite di Inter e Milan erano fuori Milano e quindi era verso mezzanotte, e quindi abbiamo buttato giù dal letto questo, quell'altro, soprattutto quelli che ricordavano Meazza per l'averlo visto in campo. E dai ricordi dei più anziani della redazione veniva fuori il ritratto di un giocatore, diciamo, gigantesco. Era uno, pochi lo sanno e pochi lo ricordano, che sapeva giocare in tutti i ruoli, compreso quello del portiere. Una volta non c'era la sostituzione dei giocatori, tantomeno del portiere, neanche del portiere, anzi. e lui si mise in porta, ma non si passava. Era la quintessenza del calcio, a sentire quello che mi raccontavano. Poi ci sono i filmati di quando giocava in nazionale, di quando vinse due titoli mondiali, non uno. In quella situazione naturalmente bisognava anche andare a cercare le fotografie, e quando ero in archivio mi ricordo che guardavo, cercavo, e mi viene in mente un'idea: ma lo stadio di Milano non ha un nome, è lo stadio comunale, e se gli dessimo il nome di Meazza? Dentro di me pensavo, però ha giocato solo nell'Inter, dentro di me è difficile che si dia il nome di Meazza. Però che cosa invece rendeva, come sempre accade poi con campioni di questo tipo, di fatto bipartisan questa candidatura? Il fatto che questi campioni di fatto sono campioni del calcio. Certo, rientro comunque nella redazione sportiva, che ormai era piena del rumore delle macchine per scrivere, e riferisco la mia idea a Enrico Crespi. Enrico, però ha giocato nell'Inter. No, mi dice, ti sbagli, per un anno ha giocato nel Milan. Bravo, hai avuto una buona idea, andiamo avanti. Per cui parte così, grazie alla tua intuizione e anche a questo importantissimo completamento, che tra l'altro non era casuale nel calcio di un certo tipo, perché c'era la voglia di giocare, quindi la prima maglietta ti capitava addosso, la indossavi, e quindi non c'era problema nel giocare nell'Inter, Milan, nel Torino, nella Juventus, eccetera eccetera. Parte di fatto quelle che oggi non si fanno più, cioè le campagne giornalistiche, cioè la notte si fa promotrice di questa idea. Sì, e Crespi l'ha interpretata in maniera magistrale, perché era veramente un gran giornalista, e immediatamente nella pagina dedicata a Meazza ritaglia un tagliando su cui c'era scritto: desidero che il rinnovato stadio di San Siro venga intitolato a Giuseppe Meazza, la firma eccetera. Tra l'altro, come sentite dal rumore della carta che sfrigola, ce l'abbiamo in mano quella pagina, stiamo leggendo quel tagliandino, a me viene voglia di compilarlo e già di mandarlo ancora oggi. L'eco della campagna è immediata, perché nella pagina della notte di mercoledì 5 settembre 1979 leggo testualmente: l'iniziativa di intitolare al nome di Giuseppe Meazza, milanese due volte campione del mondo, lo stadio di San Siro, ha incontrato a Milano e in tutta Italia un'eco commossa e una partecipazione entusiasta. Al nostro giornale continuano ad affluire le schede di coloro che, aderendo all'iniziativa, invitano il sindaco Carlo Tognoli e la sua sensibilità di milanese e di sportivo a fare in modo che il rinnovato stadio di San Siro porte il nome di Giuseppe Meazza. Insomma, praticamente avete fatto un referendum. Abbiamo fatto un referendum con una risposta che ha sorpreso anche me. Veramente, questi tagliandini affluivano continuamente, pacchi, sacchi di posta ricevevamo, e le ricevevamo da tutta l'Italia. Strano, mi ricordo una lettera che è arrivata dalla Sicilia. Ma la cosa che mi aveva sorpreso era che Meazza non aveva soltanto dei tifosi, aveva anche delle tifose. Aveva, quest'uomo aveva evidentemente un grande fascino, era uno dei primi veri e propri idoli dello sport. Allora Mario, fermiamoci un attimo, poi ci ritroviamo qui a Olimpia. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Olimpia, miti e verità dello sport. Il primo tempo finì 3-2, con due gol che io ho segnato. Poi nella ripresa ho fatto un altro gol e abbiamo finito la partita 3-3. Quell'anno ho vinto la classifica dei cannonieri con 31 reti. Secondo è arrivato Volk a 21 reti. Davvero magica la voce di Giuseppe Meazza, che dal passato risuona fino a noi, fino ad oggi. Siamo qui ad Olimpia con Mario Natucci, giornalista e collega, colui che diede il via a quella campagna che portò ad intitolare lo stadio di San Siro proprio a Giuseppe Meazza. Ecco Mario, non mancarono i problemi burocratici e anche politici, vero, per arrivare a quell'intitolazione? Gli ostacoli ci furono, ostacoli burocratici e anche ideologici. Burocratici perché il comune aveva la sua burocrazia, tra il dire e il fare c'è sempre qualcosa da aspettare, o per dirla con Marcello Marchesi, tra il dire e il fare c'è una busta da dare. Ma a parte le battute, c'era anche un ostacolo ideologico, perché Meazza era noto come il Balilla. Lui era il giocatore che, avendo vinto due mondiali, era soprannominato dal regime fascista il Balilla, e questa cosa non andava tanto a genio a parecchi componenti della giunta milanese, che era di sinistra. Il comune aveva una giunta Tognoli socialista, era un partito che aveva rappresentanti della sinistra. Ora, La Notte aveva fama, per me ingiustificata, di essere un giornale, diciamo, tout court fascista. Che fascista significava giornale di destra, di idee liberali, insomma quello che non era di sinistra in quegli anni, ed erano ancora, era la fine degli anni di piombo, erano fascisti. Comunque era, tanto per ricordare quei tempi, il giornale più venduto a Milano, più del Corriere, e aveva un grande successo popolare. La nostra idea della Notte ebbe un percorso un po' difficoltoso. Un giorno però incontrai l'assessore dello sport, che era un rappresentante del Partito Socialdemocratico, era un avvocato. Io ho un ottimo ricordo, si chiamava Paride Accetti, è un po' spazientito, e lo vedevo in tante conferenze stampa, gli dico: ma santo cielo, ma questa nostra idea dello stadio Meazza perché non va avanti? Dice l'avvocato: ah, ma guarda, caro Natucci, ma se fosse per me io lo farei subito. Ah sì, dico, allora guarda, qui c'è La Notte col tagliandino, vuoi firmare? Subito, come no? E firmò col pennarello. Eccolo qua, ce l'abbiamo qua in mano, proprio quella pagina, vedo bene, firma Accetti, eccolo qua, nome Paride, cognome Accetti, l'indirizzo, firma Accetti, eccolo qua. Poi lo mettiamo, ve lo faremo vedere anche sul sito, sul nostro, su radio24.it, la pagina d'Olimpia. Quel giorno stesso prendo il tagliando, lo faccio riprodurre e faccio questo titolo. Eccolo qua, il giudizio di Paride, anche lui è favorevole, il punto sul referendum stadio Meazza, stadio Giuseppe Meazza, quindi il giudizio di Paride... Il giudizio di Paride era riferito ad Accetti ed è una reminiscenza un po' colta, non è proprio dal giornale popolare, però insomma anche Paride Accetti era favorevole. Fu la svolta. Da quel giorno il cammino, l'iter, come si vuol dire nella burocrazia, dello stadio Meazza andò avanti. E nella primavera successiva arrivò proprio l'intitolazione ufficiale con la targa, eccetera. Tra l'altro poi nell'80, vado a memoria, lo scudetto andò all'Inter, forse. Non mi Insomma, ricordo. Sono due, anni, son due anni che lo vinse prima il Milan e poi l'Inter, per sì. Cui tutto sommato... Ma negli sommato... anni pari mi sembra di ricordare che è sempre l'Inter. Infatti, se non sbaglio, 78-79 il Milan e 79-80 l'Inter. Quindi, insomma, il Meazza ebbe subito... Sì, ebbe il suo diritto di cittadinanza a Milano. Adesso vedremo che fine farà, si parla di destinazioni ancora da scoprire, perché lo prende l'Inter, rimane di tutti e due solo. Certo è uno stadio unico in Italia, non solo per la storia che ha raccontato a tutti gli italiani, ma anche perché è fatto per il calcio. Non esiste la pista di atletica, le gradinate incombono sul terreno di gioco e quindi è l'ideale per il calcio. La partita più bella che ricordi di aver visto al Meazza, quindi dopo l'intitolazione? Ce ne sono state tante e non ne ho presente soltanto una. Mi sembra di aver visto una partita della nazionale dopo il vittorioso mondiale del 82. mi sembra che la squadra avversaria fosse la Cecoslovacchia. Ti aiuto io, finì 2-2. Ecco sì. Finì 2-2. Ma fu una bella partita, anche perché a nobilitare il Meazza ci fu il colore azzurro della nazionale. Campione del mondo, sì sì. In una qualificazione europea piuttosto sfortunata, ma sì. quel 2-2 l'apri, erano gli europei dell'84. Sì. Quindi insomma è bello vedere l'Italia col titolo sulla maglia o quantomeno nella bacheca, calpestare l'erba del Meazza. E poi ti chiedo, siamo in un'epoca del tutto diversa, no? Da quella che portò a questa prestigiosa intitolazione. Come vivresti il fatto che a quel nome Stadio Meazza potesse o possa un giorno sovrapporsi quello magari di un munifico sponsor che possa ribattezzare o quantomeno coabitare col suo nome con questo stadio? Allora, poiché sono un collega d'epoca, quest'idea la farei fatica a digerirla. Però è anche vero che sono vissuto in un'epoca in cui il, tanto per dire, un altro impianto importante come il Palazzo dello Sport si è chiamato con nomi diversi, però si chiamasse con un altro nome, di un caffè o di un sapone, ma farei fatica. Mi permetto di condividere questo scetticismo e vabbè, si sa, insomma, noi cerchiamo di fare qualche gol in contropiede ai tempi che vanno spesso in tutt'altra direzione. Intanto davvero soprattutto un grazie di cuore a Mario Natucci per essere stato oggi ospite di Olimpia e per averci fatto riassaporare tempi diversi e lontani in cui però affonda una delle cose più belle e preziose della nostra cultura sportiva, la memoria che ci unisce ai grandi campioni che hanno fatto la storia del nostro sport, la storia del nostro calcio. Grazie Mario. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.